Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di indipendentismo, è un argomento molto controverso, di grande attualità, Catalogna docet, ma si parla da sempre di indipendentisti baschi, corsi, scozzesi, irlandesi. Noi abbiamo dedicato una puntata alla vicenda terribile di Bobby Sands, l'indipendentista irlandese che si era lasciato morire in carcere. Insomma, nel mondo ci sono tantissimi paesi dove ci sono popoli o parte di popoli che rivendicano la loro libertà. Beh, è un argomento interessante, controverso. Se cercate la parola indipendentismo, la definizione è questa: il fenomeno politico caratterizzato dal rivendicare l'indipendenza di un territorio dalla sovranità di uno Stato. A volte si usa anche il termine separatismo o secessionismo. Bisogna distinguere naturalmente l'indipendentismo dall'autonomia. Anche noi in Italia abbiamo regioni a statuto autonomo, significa che hanno maggiori poteri amministrativi locali, ma ovviamente sono sottoposte alla sovranità dello Stato. Invece l'indipendentismo rivendica il principio di autodeterminazione dei popoli, fondato sulla storicità di una passata indipendenza di un territorio, anche nella cultura del popolo che lo abita. Bene, oggi noi parleremo di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla causa dell'indipendenza della sua terra, la Sardegna. Lui e tutti quelli che lo seguivano ritenevano che la Sardegna fosse uno stato a parte dall'Italia, con una lingua, tradizioni e una cultura a parte, con problematiche diverse peraltro rispetto al resto dell'Italia. Naturalmente questo tipo di battaglie ti fanno poi sconfinare nell'illegalità, e questo è quello che è capitato anche al protagonista di oggi, Salvatore Meloni. Tutti lo chiamavano Dodore, un personaggio molto particolare, sicuramente un uomo di coraggio, un combattente, uno che ha rischiato e pagato di persona per quello in cui lui credeva, e quello in cui lui credeva era l'indipendenza della sua Sardegna. Noi, in questa Repubblica del Maluento, una Repubblica che dopo si punta a riendi, merda da su manco, e non credi che invece di avere, in questa Repubblica, proprio noi. E se io domandando, io ho fatto con Mictau, proprio da Ragoli, su di Nain, dotto Stadrosu, poi da Vigai. E sentite in questa voce la fierezza di parlare la sua lingua, la lingua sarda. E infatti, a parte i sardi, insomma, è assolutamente impossibile capire cosa stesse dicendo. E questo spiega cosa si intenda per nazione vera e propria, perché la Sardegna, a cominciare dalla lingua, che è una lingua e non un dialetto, è veramente una regione a sé stante, un mondo diviso dalla terraferma, da 200 miglia di acque territoriali. È un luogo con problematiche diverse dal resto del paese, che non gode di una continuità territoriale, che ha una cultura e una storia assolutamente particolari. E in Sardegna questo fervore indipendentista è sempre stato vivo, molti hanno sempre portato avanti questa convinzione anche tra la gente. Dodore Meloni nasce il 4 maggio 1943 a Itiri, in provincia di Sassari. Da piccolo si trasferisce a Terralba, in provincia di Oristano, e lui è un ribelle per nascita. Il sentimento di non appartenenza allo Stato centrale italiano lui lo avverte fin da quando è molto giovane, anche se non è un ideologo e fa una professione semplice, è un autotrasportatore, ma lui ha una passione politica prorompente e, diciamolo, fondamentalmente sovversiva. Inizia la sua attività politica nel movimento sociale a Terralba, poi entra a far parte del Partito Sardo d'Azione, che è una coalizione storica fondata negli anni 20 con una fortissima connotazione autonomista. Quando Dodore entra nelle file di questo partito c'è un momento di grave crisi dovuta ai continui cambi di linea politica. Prima era stato stretto un patto federativo con i socialisti, poi col PC, poi verranno siglati patti di alleanza con varie coalizioni di centro, tutto questo allo scopo di portare avanti la causa indipendentista sarda, di segnalarla all'attenzione nazionale e anche internazionale. Però si sa, quando la politica centrale si mette di mezzo, gli interessi locali passano in secondo piano. E negli anni Ottanta le cose cominciano ad andare un po' meglio, proprio per un rinnovato sentimento di indipendentismo che dà nuova linfa vitale al movimento. Durante l'importantissimo 20° congresso del Partito Sardo d'Azione, siamo a dicembre a Porto Torres nell'81, Dodore Meloni è uno che, di quelli che propongono e ottengono la modifica dell'articolo 1 del proprio statuto, inserendo la parola indipendenza al posto di autonomia statuale, senza più nessun riferimento allo Stato italiano. È uno strappo totale con l'Italia che provoca naturalmente indignazione a vari livelli. Si parla di cospirazione contro lo Stato, si accusano i fautori di questa scissione di avere interessi personali e locali. Ma Dodore Meloni, lo abbiamo detto, è un uomo passionale, senza mezze misure, non è sicuramente un negoziatore, un diplomatico. Bene, per lui quello che è stato deliberato a Porto Torres sta per avere uno strascico destinato a cambiare per sempre la sua esistenza. Siamo nel dicembre del 1981, pochi giorni dopo il congresso del Partito d'Azione e la modifica allo statuto, Dodore Meloni viene accusato di aver partecipato a un attentato avvenuto nell'ottobre precedente alla sede della Tirrenia di Cagliari, la compagnia di navigazione, e viene rinvenuto del materiale esplosivo nella sua abitazione di Terralba, e lui assieme ad altri membri del partito e ad alcuni simpatizzanti, in totale sono 27 persone, viene imputato di complotto separatista. Il processo va avanti 4 anni e si conclude con una condanna pesantissima, quelle che vengono definite le sentenze esemplari: 41 anni complessivi di carcere e 16 condanne, con le due pene più pesanti che vengono inflitte ai due imputati e ritenuti i capi dell'organizzazione: Gavino Piliu, che è un professore universitario, un sassarese, condannato a 4 anni, e lui, Dodore Meloni, ritenuto l'anima del complotto, che viene condannato a ben 9 anni e 3 mesi di carcere e interdetto a vita dal diritto di voto. È una sentenza che fa scalpore per molti motivi. Intanto i condannati naturalmente ricusano il tribunale, si considerano dei prigionieri politici, la loro un'azione volta alla liberazione della loro nazione dal giogo dello Stato italiano. Questo è quello che loro sostengono. Poi Gavino Piliu è molto noto in Sardegna per una sua attività di autonomista. Pensate che quando era sindaco di Bulzi, che è un paesino vicino a Sassari, lui aveva accolto il presidente della Repubblica Sandro Pertini, che visitava la Sardegna indossando il costume tipico sardo, salutandolo come capo di uno stato straniero. Insomma, quanto voglia di provocazione non ne mancava da quelle parti. Questo processo peraltro è teatro anche di un giallo che avrebbe potuto avere delle ripercussioni internazionali. Sì, perché durante la festa dell'amicizia italo-araba che viene organizzata a Catania nell'81, Gavino Piliu e Dodore Meloni incontrano un certo Angeli Mohamed Tabet, che è un addetto culturale del governo libico, e quindi questo addetto culturale in qualche modo incontra delle persone che si dichiarano rappresentanti di un'entità diversa dall'Italia, e lui racconterà che in quell'occasione era stato fatto un accordo a seguito del quale peraltro alcuni patrioti sardi erano stati addestrati nei campi paramilitari del deserto libico, preparandosi all'ora X che sarebbe dovuta scattare con l'occupazione di una caserma militare, il blocco delle strade dell'isola. Insomma, una rivoluzione in piena regola, con tanto di proclama annunciato alla radio, sostenuto dallo stesso leader Gheddafi, che allora era primo ministro. E poi tutto era finito in una bolla di sapone. Forse la Libia, insomma, non se l'era sentita di sostenere un progetto così anti-italiano, e il sogno di Dodore Meloni di liberare la Sardegna si era infranto contro le sbarre di un carcere. E Dodore Meloni, in un paese nel quale tra condoni e cose varie nessuno si fa tutti gli anni di carcere, lui i suoi 9 anni li sconta tutti: a Oristano, a Nuoro, a Cagliari e poi a Pisa. Nessuno sconto, nessuna uscita anticipata per buona condotta o arresti domiciliari. Ripeto, in un paese nel quale è difficile farsi anche solo la metà degli anni ai quali vieni condannato, niente. E mentre è a Nuoro in carcere, lui fa uno sciopero della fame, 5 mesi di sciopero per protestare lottare contro quella che lui giudica una persecuzione politica, viene ricoverato, nutrito a forza. Durante un ricovero lui prende carta e penna, presenta un esposto al procuratore della Repubblica per sequestro di persona. Insomma, è un combattente indomito. Poi negli anni 90 esce di galera, va in Corsica e prende contatto con gli indipendentisti corsi, altra gente diciamo di carattere. Si sposta anche a Milano perché continua a fare l'autotrasportatore, l'imprenditore del campo alimentare, ma non perde mai di vista il suo obiettivo principale. Fonda il Partito Sardo Pro Sindipendenza, il Par Is, con il quale partecipa anche alle elezioni regionali, ma la sua rimane una formazione estrema e quindi relegata a un ruolo marginale. E qui bisogna fare una riflessione, perché Dottore Meloni è un autotrasportatore, non è un politico puro, non è scaltro, non è un docente universitario, non è un filosofo, è un uomo del popolo, e nei suoi confronti la società italiana è molto classista, perché una cosa è difendere la parola di un intellettuale, di un romanziere, di uno scrittore, e abbiamo visto campagne a favore di grandi intellettuali che in qualche modo si erano opposti al potere, però erano gente che contava. È completamente diverso invece schierarsi con un lavoratore che non appartiene al mondo dei salotti romani o milanesi. E lui ha un sogno, quello di vedere riconosciuto alla Sardegna il diritto di autogovernarsi, e questo ovviamente si scontra con un modo particolare di atteggiarsi delle nostre classi dirigenti, che magari concedono il diritto di essere un brigatista al figlio di un leader democristiano, caso Marco Donat Cattin, oppure hanno un atteggiamento assolutamente affettuoso, per esempio nei confronti di un rivoluzionario come Gian Giacomo Feltrinelli, che proviene da una delle grandi famiglie dell'aristocrazia industriale lombarda. O pensate a quante menti si sono mosse a difesa di Erri De Luca, personaggio peraltro rispettabilissimo, ma che comunque, essendo parte del mondo radical chic romano, ha trovato compatti gli intellettuali e la gente al suo fianco. Dietro a Dottore Meloni non c'è nessuno, non ci sono soldi, non c'è potere, non c'è il fascino del personaggio colto, non ci sono soprattutto amicizie altolocate. A lui non viene concesso il credito e lui i 9 anni se li fa tutti. È lui che adesso è uscito, il credito se lo vuole andare a prendere da solo. Nel 2008 occupa l'isola di Malu Entu, un fazzoletto di terra disabitato al largo di Oristano, e quell'isoletta in realtà è già un sopruso di per sé, perché il suo nome Malu Entu significa cattivo vento. Se voi guardate sulle carte geografiche troverete che è indicata col nome di Malventre, quindi già è una traduzione errata. Insomma, Dottore Meloni con una dozzina di fedelissimi occupa l'isola e si proclama presidente della Repubblica indipendente di Malu Entu. Qual è la festa più importante di tutte? La festa dell'indipendenza. Se tutti i popoli del mondo possono festeggiare questo giorno come un sacrosanto diritto di veder riconosciuta la propria autodeterminazione, perché noi sardi non possiamo avere questo diritto nella nostra terra? E da queste parole traspare questo desiderio di indipendenza di Dottore Meloni e dei suoi seguaci. Loro mettono la loro nuova bandiera sul suolo incontaminato dell'isola. Sono 7 km² di paradiso naturale, costituiti prevalentemente da granito, suolo steppico, con una fauna di piccoli rettili, volatili, disabitata. Malu Entu fa parte dell'area marina protetta della penisola del Sinis, appartiene dal 72 alla società napoletana turistica Cabras del milionario inglese Rex Miller. Gli indipendentisti del partito Paris, guidati da Dottore, si impossessano di questa isoletta, adottano un nuovo sistema monetario, si danno un nuovo governo, e il loro intento, se volete delirante, ma comunque da sognatori, da folli, è quello di fare dell'isola il 139esimo paese riconosciuto dall'ONU. Figuriamoci, arrivano 500 richieste per ottenere la cittadinanza, ma quello che attende il governo neonato di Malu Entu e soprattutto il presidente Dottore Meloni, purtroppo è un'altra storia e un altro finale. Il falco e il gabbiano. Oggi stiamo raccontando la storia, forse di un visionario, di un sognatore, comunque di un fuorilegge, di uno che si è messo fuori dall'ordine costituito. Stiamo raccontando la storia di Salvatore Meloni, detto Doddore, un indipendentista sardo, o meglio l'indipendentista sardo per eccellenza, promotore di una richiesta di trasformare la Sardegna da regione autonoma a regione indipendente, cioè stato indipendente dallo Stato italiano, e viene arrestato con l'accusa di essere a capo di un complotto e nell'84 viene condannato a 9 anni di carcere. E questi 9 anni, unico caso credo in Italia, se li fa tutti. L'accusa è cospirazione politica, associazione sovversiva contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. È l'unico italiano che verrà mai condannato fino adesso per questo reato, e gli viene revocato a vita il diritto di voto, che è, come dire, uno sfregio proprio alla persona e ai suoi diritti civili e umani. È però uno sfregio giustificato dalla legge. Lui non si ferma. Il 25 agosto del 2008 compie un'azione a sorpresa e dichiara l'indipendenza della Sardegna, ponendo il suo quartier generale sull'isola di Maluento, un'isoletta di fronte alle coste sarde, di fronte a Oristano. E naturalmente, insomma, lo Stato in questi casi è molto più veloce che in altri, e l'avventura del nuovo governo indipendente di Maluento dura molto poco. Il 30 gennaio 2009 la forestale, la capitaneria di porto di Oristano eseguono un'ordinanza del GIP e fanno sgombrare il presidio indipendentista e fanno sequestrare le attrezzature. Doddore e gli altri suoi seguaci vengono iscritti nel registro degli indagati per occupazione abusiva, danneggiamento ambientale e smaltimento illecito di rifiuti solidi. Viene ammainata la bandiera dello Stato indipendente, viene stracciato lo striscione che accoglie quelli che arrivano dal mare verso il punto di sbarco, che reca una scritta in sardo: impari cun totus, ma asutenemus, insieme a tutti, ma sotto a nessuno. Ascoltate una delle rarissime dichiarazioni di Doddore Meloni in italiano. Di solito lui parla solo in sardo. È una dichiarazione che viene rilasciata a seguito della sua iscrizione nel registro degli indagati. Sono alto, occhi azzurri, coraggioso, forte, passionale. C'ho tutto per essere odiato dalle mezze calzette, scusano. Solo la mia presenza li fa andare in bestia. Solo perché esisto. Perché ricordati questo, io sono l'emblema della resistenza in Sardegna, sono un simbolo. A questi mediocri, quelli che a me non mi possono sopportare, e tutta gente che con me non ha mai scambiato una parola. Esce queste notizie, non è qualcuno di questi che si mettono a scrivere in Facebook questo e quest'altro, ha un attimo la possibilità di essersi collegato il cervello, il neurone uno con l'altro. Io sono semplicemente scritto in un registro degli indagati. Allora, che cosa me ne frega a me se un tribunale, un procuratore italiano mi scrive sul registro degli indagati? Mi fa piacere, sono orgoglioso, perché vuol dire che ho anche ridicolizzato il record di Berlusconi. Lui 42 processi in 20 anni, io sono adesso con questo al 24esimo in 5 anni. Da quando ha fatto la Repubblica di Maluento si è scatenata la caccia a Doddore. Ma a Doddore i problemi non se ne pone. Perché Doddore parla di indipendenza. Questa è una dichiarazione programmatica molto emblematica, perché mette in risalto la forza, la personalità prorompente di Doddore. Avete sentito cosa dice? Sono alto, ho gli occhi azzurri, sono coraggioso e passionale, ho tutte le caratteristiche per essere odiato dai mediocri. In effetti si cerca di colpirlo dove si può, non lo si può colpire sul terreno della consultazione politica, perché lui è irremovibile. Le sue teorie non implicano contraddittorio. Non si può colpirlo sul concetto ideologico dell'indipendentismo, perché lì è ferrato. Lo si colpisce dove? Sullo smaltimento illecito dei rifiuti. Peraltro, a distanza di 7 anni dai fatti, nel 2016 tutti gli imputati, compreso Doddore, vinceranno il ricorso in Cassazione, perché le imputazioni non sussistono. Ma intanto nel 2009 il sogno di questo gruppo di uomini di portare la Sardegna all'indipendenza viene nuovamente fermato. E da quel 30 gennaio 2009, con lo sgombero di Maluento, inizia per Doddore Meloni un vero e proprio calvario, persecuzioni, procedimenti penali, condanne, incarcerazioni. Lui risponde con scioperi della fame e della sete. Intanto le figlie, la moglie, il fratello, il nipote, il cognato, tutti i componenti della sua famiglia e molti militanti del suo partito vengono coinvolti nelle inchieste a suo carico. Lui va avanti imperterrito perché crede nel sentimento indipendentista, è convinto che sia una ispirazione latente di una buona parte dell'opinione pubblica che avverte questa condizione di penalizzazione che vive la Sardegna rispetto al resto d'Italia. E devo dire che insomma, andando in Sardegna, io molto spesso a volte insomma si percepisce questo senso di revanche della Sardegna nei confronti dello Stato centrale. E per Dodore questa è un'aspirazione legittima, viste le condizioni, sostiene lui, in cui verte la regione a causa delle politiche centrali, perché è uno Stato che impone delle gabelle come l'odiatissima IMU e diventa uno Stato che affama sempre, secondo la sua teoria, quando pretende l'IMU sulle case dei cittadini sardi che sono emigrati per necessità e che si trovano a pagare l'IMU sulla loro casa di famiglia, diciamo, come se fosse una seconda casa, e questa viene percepita come una ingiustizia. Invece loro le case le hanno dovute lasciare con la speranza di poter tornare, che in Sardegna si verifichino delle condizioni lavorative per le quali rimanere nella propria terra. E poi l'altra battaglia di Dodore è contro uno Stato che lui ritiene permetta, grazie all'Unione Europea, l'importazione libera da ogni paese di prodotti agricoli, caseari, e tutto questo ha messo in ginocchio l'economia dell'isola. Insomma, secondo lui staccarsi dall'Italia era diventata una necessità ed era un gesto che avrebbe comportato un immediato miglioramento dell'economia sarda, che poteva concentrarsi su quello che aveva di più importante, cioè le sue meravigliose bellezze, la domanda turistica che non conosce crisi. Insomma, Dodore le idee le ha molto chiare. La Sardegna non produce più, non c'è più PIL. Noi siamo diventati esclusivamente acquirenti. La Sardegna è diventata una bancarella commerciale, perché noi adesso dobbiamo importare tutto. Dai pesci alla carne, dalle altre cose, dall'acqua, frutta, verdure. E questo trend lei come lo cambierebbe? Cambierebbe? Non è che oggi diventiamo indipendenti, il giorno dopo come facciamo a risolvere, a sollevare questa leva economica? Prima di tutto, della quale il giorno che fossimo indipendenti ci coricheremo carichi di debiti, che ce li ha caricati l'Italia, e senza dover più un centesimo a nessuno, perché è una nuova repubblica per cui tutti i debiti che abbiamo nei confronti dell'Italia cadrebbero. Per cui vuol dire che noi ripartiamo da zero. Cosa siamo noi? Più deficienti dei maltesi o dei croati o degli sloveni o adesso per esempio dell'inutto della Groenlandia? Cosa siamo? Capite che insomma c'è di che discutere. Ma perché lo Stato italiano si dimostra così inflessibile e repressivo nei confronti di una persona che alla fine ha portato avanti la sua idea di indipendentismo senza commettere violenze, senza mettere bombe, senza attaccare forze di polizia, senza violenza? A chi può nuocere un uomo che nel frattempo è già un uomo di una certa età, un uomo che esprime solo idee? Beh, le idee possono fare più paura di una bomba. E Dottore Meloni sa benissimo che se lui riuscisse nel suo intento di rendere indipendente la Sardegna, scatenerebbe un effetto a catena, altre regioni sarebbero spinte a voler fare lo stesso, e ovviamente il governo italiano non può lasciare spazio a dei precedenti così pericolosi. Ma dato che non sono riusciti a fermarlo sul piano ideologico, l'attacco prosegue su altri livelli, un po' come fecero in maniera positiva i federali americani quando incastrarono Al Capone per la frode fiscale. Dodore Meloni viene accusato di non aver pagato le tasse e viene incarcerato per evasione fiscale. Il falco del Gabbiano. Dodore Meloni viene arrestato per frode e per evasione fiscale il 28 aprile 2017, in un giorno di festa del popolo sardo, il Die de sa Sardigna, e in tutta l'isola si sta festeggiando, e lui viene arrestato dopo un grottesco inseguimento della sua panda rossa. Lui deve scontare un cumulo di pene per non aver pagato le tasse, e le pene ammontano a 3 anni di galera. Ricordiamo che al momento dell'arresto Dodore ha 74 anni. Le accuse di evasione fiscale sono valide a tutti gli effetti, non c'è niente da fare, perché lui in effetti non ha pagato le tasse per 5 milioni di euro. Era titolare della Felix commerciale di Terralba, che operava nel settore dei supermercati e del trasporto su strada, e poi di altre ditte che operavano nel campo della lavorazione e conservazione dei prodotti ittici, e poi di un'altra ditta ancora. Insomma, avrebbe dovuto pagare regolarmente le tasse e non lo ha fatto. I sospetti sulle sue attività imprenditoriali cominciano quando i finanzieri di Oristano gli contestano delle violazioni penali e fiscali, compresa l'IVA non dichiarata e non pagata. La situazione va avanti per diversi anni, vengono contestate intanto ulteriori evasioni, si arriva a diversi rinvii a giudizio che vengono aggravati dalla recidiva, porteranno alla fine all'arresto. Ma dottore Meloni non nega, anzi. Ma lei le tassa perché non le paga? Come dottore Meloni non le pagherò mai. Se sono indipendentista, come può un indipendentista pagare le tasse allo Stato che lo sta opprimendo? Sì, ma lei i servizi dallo Stato li prende lo stesso. E quali sono i servizi? La pensione la prende? No. No. E dunque sulle strade ci viaggia, le strade le paga lo Stato? No, le strade le pago con il bollo di possesso sulle macchine, sui cambi e via di seguito, col carburante che pago. Sì, no, proprio contrario, le tasse l'Italia le fa in forma indiretta. Ognuno di noi cosa fa tutti i giorni? Uno va a comprarsi le sigarette, sta pagando le tasse, compra il gasolio, non ne parliamo. La bolletta della luce è 50% valore della luce, 50% tasse, perché non sono tasse quelle che vengono pagate tutti i minuti. E allora ogni imprenditore, ogni dipendente sardo potrebbe fare lo stesso ragionamento e non pagare le tasse. E beh, se ve l'avessimo fatto forse sarebbe meglio, meno case sequestrate ci sarebbero. Non lo freghi facilmente questo qua, eh. Al momento dell'arresto lui si dichiara detenuto politico belligerante ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani, ratificati peraltro anche dallo Stato italiano. Si porta in cella la biografia di Bobby Sands, e come ha fatto l'indipendentista irlandese Bobby Sands, eroe irlandese, anche lui decide di iniziare l'ennesimo sciopero della fame e della sete. E dal carcere di Piazza Manno Dodore annuncia che darà battaglia e che si aspettava di essere arrestato dopo aver dichiarato pubblicamente di voler concorrere alle elezioni regionali. La Guardia di Finanza però ribatte che loro non c'entrano nulla con la politica, si occupano solo di evasione fiscale, e dal punto di vista della Guardia di Finanza è chiaro che di evasore fiscale stiamo parlando. E intanto passano i giorni, l'astensione dal cibo e dall'acqua comincia a minare il fisico di Dodore, viene trasferito nel carcere di Cagliari Utta, vicino a Cagliari, e poi nel centro clinico dello stesso carcere. Lui si aggrava, la sua debilitazione arriva a un punto di non ritorno e viene ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, e lì muore. È il 5 luglio 2017. E per parlare di Dodore Meloni con qualcuno che l'ha conosciuto molto bene, che ha lottato al suo fianco fino all'ultimo, abbiamo con noi l'avvocato, mi scusi ma io rispetto troppo il ruolo per non chiamarla avvocata, avvocatessa, Cristina Puddu. Buongiorno avvocato. Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori, e la ringrazio per l'avvocato. Dunque, Dodore Meloni è un personaggio controverso e sapeva il rischio che stava correndo. Ci risulta che le avesse confidato che sapeva bene che avrebbe potuto morire, però che le sfide nella vita, insomma, non si possono lasciare a metà. Esattamente, era proprio la sua filosofia, quella di non arrendersi mai, di rimanere coerente sempre a qualunque costo. E certamente me l'aveva confidato, ma non soltanto a me, nel senso che aveva veramente reso pubblica, prima dell'ingresso in carcere naturalmente, la sua volontà di portare avanti questa protesta, questa battaglia contro l'accanimento giudiziario per motivi politici, che gli era stato veramente portato avanti, fino alla fine, fino all'ultimo, e in effetti purtroppo così è stato. Dunque, avvocato, Dodore è uno, credo, dei pochissimi casi in tutta Italia che quando gli hanno dato 9 anni se li è fatti tutti, non ha avuto un giorno di sconto. Quindi in qualche modo questo accanimento, come dice lei, dello Stato ne aumenta l'importanza, perché se Dodore fosse stato un pazzo, un semplice evasore fiscale e poco altro, probabilmente avrebbe potuto usufruire di qualche maglia più larga della giustizia, e invece era molto ritenuto scomodo. Sì, infatti è veramente come dice, perché i 9 passa anni che ha scontato tutti si riferivano a una condanna degli anni 80, sì, proprio sempre per motivi politici, per reati politici. Oltretutto vorrei ricordare che a seguito di quella condanna è stato l'unico ad avere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sì, quindi è stato privato, ha avuto insomma una morte civile fin dal tempo, sì, di quella, sì, condanna, perché non era candidabile né poteva votare. Quindi è stato privato dei suoi diritti civili e politici. E il punto è che effettivamente era una persona scomoda, molto, perché era un indipendentista fino al midollo, voleva portare la Sardegna all'indipendenza, sì, ad ogni costo, con tutti i mezzi, e questo naturalmente non poteva essere accettato. L'accanimento giudiziario è stato poi ripetuto dal 2008, quando con un'azione abbastanza plateale, eclatante, ma era effettivamente proprio quello il suo scopo, ha portato alla ribalta internazionale l'occupazione e la, sì, come dire, il fondare l'isola nell'isola di Maluentu, l'isola di Maldiventri in italiano, sì, come repubblica. Quindi da questo sono poi scaturiti proprio oltre 25 processi presso i tribunali, la Corte d'Appello, la Cassazione negli anni, ha portato veramente ad avere un atteggiamento giudiziario e politico nei confronti di Meloni sempre veramente contrario alla sua attività. Certo, beh, dunque sull'amore di Dodore nei confronti della Sardegna ovviamente non ci sono dubbi. Quanto la gente sarda amava lui? Cioè quanto diciamo il popolo, la base era vicina a Dodore? Questo è tanto, veramente, perché oltretutto non soltanto il fatto che lui combattesse sempre per i diritti della Sardegna e dei sardi, ma perché aveva comunque lui personalmente una caratteristica, un'empatia, un carisma particolari, per cui era effettivamente sempre molto ben voluto, anche se, come ha detto lei inizialmente, era un personaggio controverso, quindi era di quelle persone che o si amano o si odiano, ma la maggior parte della gente, del popolo sardo, lo amava, lo ama, perché è sufficiente poi verificare anche sui social, ormai ci siamo tutti, sì, le reazioni, i commenti delle persone durante la sua prigionia e dopo la sua morte, anche oggi, tuttora, per vedere appunto con quanto amore, con quanta passione, ammirazione, stima la gente si riconosceva in lui, nella sua battaglia, gli chiedeva di non smettere, di non mollare, di andare avanti, di lottare per tutti quanti quelli che poi in effetti non hanno altrettanta forza, altrettanto coraggio, così come ha avuto lui. Avvocato Cristina Pudu è stata gentilissima, siamo contenti di averla avuta con noi. Grazie a voi, veramente, buon pomeriggio. Grazie. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, a volte il colpo d'ala è stato controverso, illegale, ostacolato, particolare, però come abbiamo appena sentito è stato anche un colpo d'ala nel quale molti hanno creduto. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, può dare il colpo d'ala e può anche cadere a seguito del suo colpo d'ala, forse è quello che è successo al nostro protagonista, Dodore Meloni. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, venite sul nostro sito, venite a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social, se volete, sapete che mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.